Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Sei pronta, Simona? Assolutamente sì, buonasera a tutti e tutte. E incominciamo alla grande, nel vero senso della parola, no? Eh sì, perché parliamo dei giganti dall'Argentina, parliamo di dinosauri. Poi tessuti, il tema tessuti e vestiti completamente riciclabili e poi, ma incominciamo esattamente da questo tema, vi mandiamo sotto il mare quest'estate a fare un lavoro, un bel lavoro. Eccoci, allora oggi partiamo da un'iniziativa che unisce l'utile al dilettevole, o meglio, che rende utile quello che facciamo per diletto, lo rende utile per la ricerca scientifica, e mi riferisco alle nuotate al mare, in particolare alle immersioni. L'Università di Bologna ha lanciato un progetto per monitorare e tutelare le specie animali e vegetali del Mar Mediterraneo, come in pratica facendo scattare una fotografia, o meglio, facendo monitorare lo stato della biodiversità marina e di conseguenza della salute del mare a tutti noi. Ne parliamo questa sera con Patrizia Neri. Buonasera. Buonasera Simona, buonasera a tutti. Biologa, ricercatrice all'Università di Bologna, appunto tra i responsabili di questo progetto che si chiama? Lo chiamiamo assolutamente Due Project. Che in pratica voi chiedete a tutti gli amanti del mare, in particolare subacquei e snorkelisti, di diventare proprio delle sentinelle del mare. Esattamente. Quello che noi chiediamo ai cittadini, appunto come dicevi tu, e in particolare coloro che si recano al mare, chi utilizza semplicemente maschere a pinne oppure chi proprio lo fa come subacqueo, quindi con addirittura con le bombole, di darci informazioni su quello che sono della presenza di determinate specie chiave del Mediterraneo. Quindi praticamente chiedete di monitorare la presenza di specie animali e vegetali in quali zone in particolare? Non solo l'Italia, ma ad esempio la Spagna, la Francia, ma abbiamo già coinvolto la Croazia, abbiamo già coinvolto la Turchia, speriamo appunto di espanderci lungo tutte le coste e per tutti coloro che vogliono appunto partecipare, che raggiungono le coste italiane o comunque mediterranee per passione. Può essere considerato a tutti gli effetti un esempio di citizen science? Assolutamente, è un progetto di citizen science, significa appunto la scienza fatta dai cittadini, e questo insieme ad altri progetti da anni portiamo avanti per appunto avere informazioni sulla situazione della biodiversità, per esempio in questo caso del Mediterraneo, ma lo abbiamo fatto per esempio in precedenza anche per le coste del Mar Rosso. I cittadini quindi sono coinvolti, sono invitati a monitorare la presenza e l'abbondanza di determinate specie marine nel bacino del Mediterraneo. In base a cosa devono orientarsi? Allora, per la raccolta dei dati abbiamo ideato un'apposita scheda di rilevamento che è disponibile sia in versione cartacea sia in versione digitale, elettronica, che è scaricabile dal nostro sito. Quindi attraverso la compilazione di questa scheda noi otteniamo una serie di informazioni sull'area che è stata monitorata dai cittadini. Anche perché poi i risultati li confrontate con quelli di un precedente monitoraggio che, se non sbaglio, risale ad una decina di anni fa, e tutto questo permette di verificare l'attuale stato di salute del Mediterraneo. E andando sul vostro sito ho visto che la lista delle specie vegetali e animali è piuttosto lunga. Ecco, il fatto che una di queste specie non sia presente, che cosa significa? Allora, noi abbiamo considerato appunto, come dicevi tu, una lista piuttosto lunga di specie, ma per quale motivo? Abbiamo cercato di considerare i vari livelli della quella che viene chiamata la catena alimentare. Noi possiamo pensare alla catena alimentare come una serie di anelli che parte dagli organismi vegetali, diciamo quindi alghe o piante marine, e mano a mano si arriva agli organismi che si nutrono di questi animali, tipo i pesci erbivori, fino ad arrivare ai pesci predatori. Quindi cosa succede? comprendendo tutti questi livelli, tutti questi anelli della nostra catena, noi andiamo a vedere effettivamente se questi organismi sono presenti in Mediterraneo e con quale, diciamo così, con quale abbondanza. Che cosa succede? Sarebbe bello che ci fossero effettivamente tutti questi organismi. La mancanza di determinati anelli di questa catena, cioè il fatto che le persone magari non riescono a individuare, e questo sia un dato che chiaramente si ripete nel tempo, non può essere una sola osservazione, e la mancanza, appunto, dicevo, di uno di questi anelli può andare a modificare quella che è la funzionalità dell'ecosistema. Se vogliamo fare un esempio, consideriamo ad esempio una riduzione ad esempio di pesci che si nutrono di alghe. Cosa succede? Perché vedete, il numero delle alghe tende ad aumentare e quindi va a ridurre, può andare a ridurre chiaramente la superficie che è disponibile per altri organismi, ad esempio i coralli che tendono ad attecchire in determinate aree, quindi la presenza dell'alga va a prendere spazio, quindi a diminuire quello che è lo spazio disponibile per questi organismi che va. Ecco, ma una curiosità. Dicevamo appunto sul sito del progetto 2project.org è possibile reperire le schede delle varie specie che è importante monitorare partecipando a questo progetto. Ce ne sono tante, a me sono venute alcune curiosità. Per esempio, come distinguere un astice da una ragosta? A colpo d'occhio? L'idea che noi abbiamo avuto è quella di inserire nelle foto di questa scheda di rilevamento degli organismi che siano o già conosciuti da chi frequenta il mare o comunque facilmente riconoscibili. Come dicevi tu, differenza astice aragosta sicuramente è un discorso di dimensioni dell'animale, di colorazione, perché ad esempio l'aragosta, questo tipo di aragosta che noi abbiamo individuato ha una colorazione rossastra, al contrario dell'astice che invece ha una colorazione più con delle sfumature bluastre. In più nell'astice vediamo queste due grosse formazioni nella prima parte del corpo, due grosse chele che non sono presenti ad esempio nell'aragosta. Un'altra curiosità, come distinguere un cavalluccio ramuloso da un cavalluccio camuso? Quando si incontra l'animale si può vedere come ad esempio il cavalluccio ramuloso abbia delle particolari appendici che lo rendono facilmente distinguibile dal cavalluccio camuso. Insomma, dai vegetali ai predatori, è lunga la lista di specie da monitorare, e se tutte queste specie risulteranno presenti vuol dire che l'ambiente è in equilibrio; se invece iniziano a mancare determinati organismi, beh, vuol dire che qualcosa non va. Ma Patrizia Neri, a questo punto ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici come si può partecipare a questa iniziativa del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano e del Gruppo di Scienze Marine dell'Università di Bologna. L'importante è comunicare con noi alla nostra mail info@2project.org e richiederci le schede che vi verranno inviate tramite posta, oppure potete tranquillamente scaricarle dal nostro sito o compilare il form online chiaramente. In alternativa potete vedere nella pagina dei nostri partner, che sono coloro che supportano il progetto, ci sono determinati centri che già stanno partecipando, sono già una quarantina, verso i quali potete reperire le schede. E allora ricordiamo il sito? 2project.org. E allora grazie, buonasera Patrizia Neri, a tutti e tutte voi che siete in ascolto, che dire, approfittate delle vacanze per contribuire a questo progetto di ricerca scientifica. Siamo al traffico, vi danno le notizie su ciò che avviene nelle strade. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso parliamo di dinosauri giganti dall'Argentina, e questo è il titolo della mostra aperta fino al 9 luglio al MUDEC di Milano, quindi approfittatene. Una grande mostra sull'evoluzione dei giganti che per lungo tempo hanno dominato il pianeta. 150 milioni di anni di storia raccontati e percorsi attraverso reperti, riproduzioni accuratissime provenienti appunto dall'Argentina, che a quanto pare è uno dei territori più ricchi e più importanti proprio per lo studio dei dinosauri. Quindi Approfittate perché manca poco tempo per la chiusura della mostra al MUDEC di Milano, ma intanto adesso la visitiamo insieme perché ci accompagna in mostra Federico, che ha intervistato Cristiano Dal Sasso, paleontologo, curatore di questa mostra, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano. E ovviamente la prima curiosità: perché tutti questi dinosauri proprio dall'Argentina? Tanti, perché l'Argentina è un territorio vastissimo, è un continente in se stesso, e poi ci sono poche foreste perché c'è stata una forte erosione e quindi sono esposti molti giacimenti su superfici estesissime. Anche l'orogenesi, cioè le montagne, si sono formate in modo più graduale e quindi non ci sono tutti quegli strati incrociati come sulle Alpi. Uno stesso livello fossilifero può essere seguito per migliaia di chilometri. Quindi ce ne sono tanti perché riusciamo a trovarne. Perché ci sono anche le industrie petrolifere che aiutano i paleontologi, che hanno sempre bisogno di una mano economica. E poi ci sono anche le scoperte casuali, dove stanno costruendo città e dove prima c'era un deserto, scavando saltano fuori le ossa dei dinosauri. Qui siamo Panfagia o Panfagia, Triassico superiore. È un po' particolare questo. Come si pronuncia intanto? Panfagia? Panfagia. Protos. Cos'è che ha di particolare questo reperto? Il nome dice che mangiava di tutto e che era uno dei primi. E in effetti qui stiamo parlando di 240 milioni di anni, quasi 230, e questa è stata tra l'altro l'ultima scoperta resa famosa nel mondo, perché questo dinosauro è un bipede facoltativo, poteva essere sia bipede che quadrupede, però ha una struttura anatomica che lo avvicina di più ai teropodi, che sono i classici dinosauri carnivori che poi avranno un grandissimo successo durante tutta l'era mesozoica. Però la testa di questo dinosauro mostra una dentatura da generalista, cioè era probabilmente un dinosauro onnivoro che mangiava sia insetti che vegetali. Quindi questo ritrovamento ci dice che all'inizio della storia evolutiva i dinosauri erano probabilmente degli onnivori. E invece voi poi, studiando i resti più giovani, ricavate che erano più erbivori oppure è rimasto mezzo e mezzo? Alcuni restano, anzi si specializzano per una dieta carnivora, e sono i dinosauri teropodi, i classici dinosauri predatori, che sono bipedi e usano gli arti anteriori non per camminare ma per catturare le prede. E poi gli altri due gruppi, cioè soprattutto gli ornitischi e poi anche i sauropodi, diventano erbivori, restano e diventano erbivori durante tutta l'era mesozoica. In questa mostra si può vedere anche il resto di un uovo, nel quale c'è un embrione di dinosauro ed è piccolo. Che cos'è questo? Questo è un embrione di un sauropode, quindi è molto piccolo, è lungo una quindicina di centimetri, è attorcigliato ancora nell'uovo, si vedono delle piccolissime ossa fossilizzate e anche delle tracce di pelle, e viene da un giacimento che è diventato famoso anche perché ha permesso di capire quanto davvero questi animali diventassero grandi dal momento della nascita. Le uova erano relativamente piccole anche nei grandi dinosauri, e poi questi cuccioli che uscivano dall'uovo crescevano durante tutta la loro vita, fino a quasi 100 anni di età. Stai dicendo che non avevano come noi un momento in cui le cellule si fermano? Sembra quasi miracoloso, no? Perché sennò potremmo diventare 20 metri. Invece loro avevano una continua crescita. Come tutti i rettili attuali. Più il dinosauro che si trova, le sue ossa sono grandi, più vuol dire che questo è vissuto a lungo. Riuscite anche a dire quanto? Si possono sezionare le ossa e contare gli anelli di accrescimento, come si fa con gli alberi. E dove si arriva? Per i carnivori a 30-40 anni, metabolismo un po' più elevato, vita più breve. Per gli erbivori, vegetariani, vegani, 80-100 anni, forse anche di più, come certe tartarughe di oggi. Qui stiamo andando a vedere un grosso carnivoro e passiamo sotto una coda che è era talmente lunga che non ci stava in una stanza. Ecco, questo è decisamente grosso. Giganotosaurus carolini. E questo era un dinosauro predatore che per dimensioni rivaleggiava il famoso T-Rex nordamericano. Non si sono mai incontrati, anche perché il Giganotosaurus era un pochino più antico, però secondo alcuni paleontologi, come vediamo da questo scheletro completato nelle parti mancanti, anche il Giganotosauro poteva raggiungere perlomeno i 12 metri. È veramente enorme. Quanto pesava? Perché la domanda è, riusciva a tenerla su? Non è che, è in proporzione al corpo, sembra quasi che dovesse strisciare per terra. Sì, i dinosauri carnivori con la testa grande, ma tutti in generale i teropodi, avevano un trucco per alleggerire le ossa dello scheletro, soprattutto quelle della testa. Erano piene di aperture, che noi chiamiamo finestre, nel cranio, e quindi l'osso pesava certamente meno. In più c'erano delle pneumatizzazioni, cioè delle zone riempite d'aria, che servivano sia per la respirazione che per la vocalizzazione. Non si sa che versi facessero, ma quest'aria presente in varie sacche nella testa doveva fungere da cassa di risonanza. Vi dico che in questa mostra sui dinosauri ce n'è uno talmente grande che la testa non ci stava nella sala e finisce dentro lo shop. Invece adesso vi parlo di tessuti di frontiera, quindi nuove realtà produttive in questo campo, che è uno dei campi fondamentali dell'industria italiana. È uscito un libro, Moda, che affronta tutta questa tematica, come vi dicevo prima, delle nuove frontiere nel campo della produzione di tessuti. Un libro edito da Edizioni Ambiente. Ne parleremo anche in seguito con una delle curatrici, Aurora Magni, per raccontarvi altri aspetti di questo grande comparto. Filippo Servalli, che è direttore marketing e sostenibilità di Radici Group, un gruppo appunto italiano tra i più avanzati, anche lui è fra gli autori. E Radici Group sta per mettere in vendita, per mettere sul mercato un capo che è fatto, è una giacca sportiva, è fatto praticamente dello stesso materiale in ogni sua componente, e quindi siamo al massimo dell'economia circolare, cioè il recupero totale. Ma appunto partiamo da qui con Servalli, che ci dice quanti sono i componenti normalmente contenuti in una giacca, in un vestito, insomma, che andiamo a comprare. Per realizzare un capo moda, diciamo una giacca o qualcosa di simile, ci sono almeno 24-25 componenti diversi. In generale. In quelle che noi vediamo. Sì, dalle 15 ai 25-30 componenti, dall'etichetta, sì, al filato di cucitura, piuttosto che la stampa, piuttosto che il tessuto stesso, lo zip, eccetera, eccetera. 25 componenti che sono materiali che diversi, sono, questo è il problema. Il problema è questo, in una logica di economia circolare, se vogliamo fare sì che il fine vita di questa giacca sia ancora valorizzata, perché molto spesso la moda chiede un cambiamento ogni tot di tempo, indubbiamente abbiamo bisogno di rendere estetica e continuare a vivere sull'estetica della dimensione moda. Secondo me la moda comunque ha questo di caratteristica, però va aggiunto questo elemento, la conoscenza dei materiali. Bisogna conoscere i materiali e progettare. Noi lanciamo il messaggio progettare 100%, cioè prevedere che i componenti, a seconda dei materiali con cui vengono realizzati, si possono fare varie tipologie di giacche con materiali diversi, però devono essere progettate con gli stessi materiali in tutti i loro componenti. Le materie plastiche, quindi le fibre sintetiche, hanno questo vantaggio. Se si possono declinare, certo. Anche così, visivamente, pensare che il tessuto che ho sulla spalla sia la stessa cosa dello zip sembra strano, mentre invece lo si può fare con procedure diverse di produzione di quel tessuto, però alla fine tu hai qualcosa che puoi proprio prendere in blocco e riciclarlo. Assolutamente sì, nel senso che nostre esperienze, cioè è molto semplice da spiegare. Un filato si misura in micron, cioè Inditex si dice in termine tecnico, quindi stiamo parlando di micron. Le materie plastiche si ragionano normalmente in millimetri, quindi produrre per fare un filo bisogna essere molto più esperti che produrre per fare plastica. Siccome poi alla fine però il materiale è, in questo caso può essere nylon, poliestere o altri materiali, possiamo lavorarlo per ottenere i micron, per ottenere i millimetri, alla fine vita di un micron, se io lo faccio diventare millimetro, ho risolto il problema e ho le caratteristiche che mi servono per l'uso di seconda vita. La qualità, diciamo, del tessuto, la qualità estetica che non si può togliere dalla moda, non possiamo dare ai progettisti di moda qualcosa che funziona per l'economia circolare, ma è magari tremendamente brutto da usare, da vedere, ma anche per essere creativi nella progettazione. È assolutamente garantito questo. Ma le esperienze che abbiamo in questi anni, dove si chiede allo stilista di fare la domanda giusta ai suoi fornitori, ai fornitori dei capi, di materiale, dicendo voglio questo materiale, l'industria è in grado di rispondere con tutte queste caratteristiche volute. Quindi l'estetica, il colore, tutte questioni che si possono assolutamente risolvere, basta solo progettare per il fine vita. Quindi estetico, un bel prodotto, lo presento colorato o meno a seconda di quello che è la moda di quel momento, ma per il suo fine vita ho già previsto che i componenti sono poi gestibili per una seconda vita. Per noi le fibre devono diventare materia plastica. Quindi è proprio questione di una scelta culturale, aziendale, di una scelta tecnica, ma praticabile, non ci sono altri impedimenti. Si può fare, come si diceva. Si può fare, bisogna fare in maniera che i materiali siano compatibili tra di loro. Più questi 25, dai 15 ai 25 componenti sono fatti con materiali che si possono rilavorare nella seconda vita, e è abbastanza facile farlo in base agli additivi che vengono inseriti, se noi siamo in grado di rilavorarli, di metterli insieme in modo corretto, noi riusciamo a gestirli. In alcuni casi le nostre esperienze ci dicono che sono anche migliori del fatto di partire già subito a fare un pezzo plastico. Cioè esattamente? Com'è? Cioè esattamente che se io progetto e utilizzo uno scarto di filato per fare poi un pezzo plastico, lo rilavoro con l'effetto termico, no, ovviamente, ottengo un materiale plastico che in alcuni casi, proprio perché la fibra, proprio che ragioni in ditex, in micron, deve essere perfetta la sua conformazione molecolare. Quando io la trasformo in materia plastica, se è tutta così perfetta, ottengo un pezzo plastico ancora perfetto. Più che se io facessi un materiale plastico che sa che deve diventare produzione da millimetri. Quindi, so se è un po' tecnico, però... No, però tu dici non solo circolarità alla pari, ma addirittura circolarità che mi sposta un po' in alto nel secondo. Se lo progetto così, se utilizzo un materiale nato per essere molto, tra virgolette, raffinato, la sua seconda vita mi consente di farlo diventare un prodotto raffinato anche e ancora di più per una seconda vita dove le richieste tecniche, le caratteristiche richieste sono un po' inferiori. Un'ultima domanda così un po' onirica, ma questa roba che voi state facendo e poi in generale insomma la vostra industria sta proponendo per quanto riguarda la circolarità di questo tipo di prodotti, voi vedete che potrebbe essere estesa un po' a tutto quello che indossiamo progressivamente, potrebbe anche arrivare alle scarpe, a cappotti, potrebbe andare avanti oppure ha bisogno di un prodotto come una giacca singola e basta? No, io credo che la strada sia percorribile. Stiamo parlando, anche qua un termine un po' tecnico, di termoplastici, cioè materiali che solo con la termia riusciamo a trasformare. Fin quando io ho a disposizione questo materiale modellabile con la termia, se questo materiale è compatibile in sé, posso lavorarlo in diverse modalità. Vado dove voglio. Quindi ce la facciamo. Io sono convinto, noi siamo convinti che questo percorso è inevitabile per avere al meglio delle materie prime che vengono da un altro settore. Quindi la nostra filosofia è che tutto quello che è fibra deve diventare materia plastica, che sia poliamide, poliestere, tutti i vari materiali termoplastici. Per questo ci consente di allungare il ciclo di vita e quindi di avere un impatto ambientale decisamente molto molto più basso. Certo tempo. Che se dobbiamo concludere insomma un'economia circolare che riuscisse a lavorare su tutto quello che si indossa, sono numeri altissimi. Ogni anno si consumano circa 70 milioni di tonnellate di fibre sintetiche, quindi cioè, è una cifra considerevole, va gestita. Il futuro è gestirla bene per un fine vita che sia ancora più sostenibile. Grazie, buon lavoro. Grazie. E così anche questa puntata è conclusa, ma... Eh sì, questa sera vi lasciamo, ma sappiate che dalla prossima Mebius raddoppia. Cioè dura un'ora. E allora a sabato prossimo. Buona settimana a tutti. E a tutte.